centinaia di chilometri. Da... Sì, esatto. E vabbè, quando c'è la propagazione però le onde sono più lunghe e vanno più lontane. Ma credo che sia riferito più al VHF quello, eh? Perché adesso non c'è più la differenza tra 144 e OM, è un'unica licenza. In telegrafia praticamente e in HF raggiungevano tutto il mondo. Sì, vabbè, ci sono punti anche. Tino, dimmi, non ho capito. Credo che sia più riferito al VHF, a 144, anziché alla 27 MHz. Che cosa? Non so questo, 27 MHz sono banda cittadina, come diceva. Ma... comunque io... Vabbè, la distanza che stava dicendo lui, se c'è un fracco o meno, capito? Sono dirette le VHF. Quelli la raggiungevano senza fonti direttamente la mente. Vabbè, scusami che sto scrivendo già. Fai, fai. Ho capito, dai. Lo so, lo so. E vabbè, comunque, se hai qualche perplessità, chiedila. Chi ti sa rispondere, ti rispondo. Devo rientrare a casa, anche perché si sta buttando un po' di freddo e non vorrei una ricaduta. Comunque sono contento di avere passato un po' di tempo con voi e di sentirci alla prossima, dai. Ehi, pomeriggio, dai, buona serata anche a te. E cerca di farti valere e di metterti questa antenna sul tetto, così almeno stai a prendere freddo. Ciao, buona serata. Natalino ci sì. Vabbè, non c'è più nessuno, Giulio. Ma io ci sono, funzionava una cosa e sono un po' concentrato qua. Lo so di te che ci sì. C'era la notte, era una notte enorme oggi. Natalino ce l'avrebbe serata perché gli hanno telefonato che stava disturbando. Zorra. Eia, ciao Marco. Eia, gli hanno telefonato stasera perché stava a parlare. Eia, ciao Gianni, ciao Tino mi sembra. Sì, ma lì non è che ogni volta che preme la portante li devono telefonare e bussare il campanello, sennò cominciano a diventare davvero molesti, a parte gli scherzi. E purtroppo non... a lavare la testa all'asino ci perde solo tempo, già lo sai come sono lì, no? Gliel'ha spiegato che gliel'ha detto, che lui è andato, si è formato, gli ha detto che può parlare tranquillamente e che se intervengono lo mettono tutto sui tanti a quelli che si lamentano. Adesso bisogna vedere, bisogna sicuro in chi, perché se si collidano tutti sono tre o quattro persone che disturbano, quindi è un casino. Io ne disturbavo una solo, un malato, però era dovuto anche all'antenna che era Fradicia, capito? Prima ha cominciato una, poi ha cominciato l'altra, allora ha mandato un tecnico, gli ha fatto fare un controllo, il tecnico ha detto manco relazione, faccio qua ci vuole cambiata l'antenna, lì è a posto. E per dirlo il tecnico, di solito quando chiami un tecnico TV dà la colpa all'antenna TV, all'antenna del baracchino, cosa già vista due volte nel mio caso, capito? Cioè, appena salito sul tetto ho visto l'antenna e dice, ah, è l'antenna del baracchino che disturba, senza manco controllare l'antenna TV, cavo, nulla, capito? Va bene, non fa niente. No, da me è stato in gamba, è sceso a casa, gli ho fatto vedere il gioco 5 bar e l'ho fatto salire su e ha toccato l'antenna, come l'ha toccata si è staccato un pezzo, ha detto ma non ce la fare, va con relazione qua, qua c'è da scrivere solo che ci vuole l'antenna nuova e che lì è perfetta regola. Gli hanno fatto cambiare l'antenna, gli hanno messo la fraccata, 140 euro e siamo andati bene. Eia, ma compresa mano d'opera? 140 euro di tutto ci ha preso, è stato, ma ti parlo di 17 anni fa, Marco, non adesso. No, perché caspita, quello di fronte per cambiarsi una misera antenna TV, no? Sì, un pezzettino di cavo, antenna e miscelatore. Totale 300 euro, che sono 600.000 lire l'equivalente. Ma stiamo scherzando? Ci sono i ladri ci sono dappertutto. Marco, ti volevo chiedere, tu che sei addentrato in queste cose, se al corrente che esistono dei pallini per la carabina che scoppiano, che esplodono quando... No. Sì, li ho visti su YouTube. Chi è Marco? Ciao Marco, lo sei tu. Allora sì, ci sono, hanno una puntina che contiene fulminato di mercurio, no? E come tocca, come impazza fa, va, pac. Ma sono tipo, sai quei petardini da ballo che di carta, che li sbatti a terra e fanno paf. È una fesseria, è già. Mi, su YouTube ci sono i video. Devi mettere 4,5 mm pellet explosive, li vendono anche, ma sono giocattoli praticamente, non è certo un proiettile esplosivo tipo arma vera, no? E così per giocare, comunque già sono carini, niente da dire. Ma dice che c'è qualcuno che dice che sono proibiti, c'è qualcuno che dice che li spedisce, c'è qualcuno che dice che non li spedisce perché sono proibiti. Ma io, quello, cioè, per, questo vale per le armi da fuoco, valeva, era vietato avere proiettili esplosivi, ma tipo roba da guerra, mi. Proiettili esplosivi, ma che ti fanno saltare il braccio, la gamba, il torace, ti tagliano in due, quelli sono giocattoli, poi qual è l'area compressa? Non credo che siano così fiscali, poi comunque se li vendono dall'Italia vuol dire che è legale, bisogna dare un'occhiata. Bisogna dare un'occhiata, ma sono già abiture, già. Si diverti molto di più allora quelli perforanti, a bucare lamierini, oggetti di vario tipo, dai. No, io lo sai cosa ho fatto, mi sono comprato i tirassini, però il fatto li volevo grandi, invece ce ne avevano piccoli. Li metto sopra una sedia, con le attaccati a un polistirolo quadrato, con delle puntine da disegno, attacco, e mi diverto a sparare quello, capito? E faccio il centro un bel po' di punte, dai. Ehi, mi sto cercando, facendo, mi scuso con, no, siccome qua stavamo facendo roba in casa, è venuta mia zia a aiutare, eravamo stasera avanti e indietro, quindi io sentivo e non sentivo, mi scuso con l'amico di Cappuccini se l'ho lasciato in bianco già, non so se abbia chiuso, se ci sia ancora, io sono entrato così a una gamba tesa, ma non era mia intenzione di lasciare in bianco nessuno. Come si chiama? Lupo Grigio, eh? C'era un 10 minuti, era via, era qua, c'era 10 minuti in base, è arrivato anche a Portottore, sono portati da via di Trieste. Ehi, avete parlato un istante in due, chi è l'altro, Tino? No, Gianmarco, non so chi sia. Natalino, tu devi modulare mattina, pomeriggio, sera e notte, li devi fare schiattare quelli, capito? Non funziona come dicono loro. Già, dai che faccio questa ricerca breve, veloce. Vai. Cosa è successo, Natalino? Ho parlato con quella che si è incazzata. Io la c'ero stato di parlare e sono stata calmata. Ma è sempre la sua? Non sei uscito? So come. Cavagava. E vabbè. E non ho detto più nulla? Perché lo dico dopo. Sì, vabbè. Cavagava. Parla tranquillo, tranquillo. Ciao Natalino. Questo passaggio lunghi e fregata. Gianni, cosa stai sparando? Sempre con la carabina, con la Diana 28. Ah, no, perché stavo guardando una beretta, non ricordo come si chiama, F2, non me lo ricordo. Devo guardare, però con le palline, ma palline anziché a funghetti. Beh, quanti ne carica? Uno solo. No, ne carica, ne carica. Cazzo, non riesco a trovare il pacco io. Porca zozzo. Aspetta che ce la provo. Tino. No, dimmi Marco. Quelle 6 mm soft tire che sparano i pallini sferici di plastica, se proprio la devi comprare, compra marca KJ Works, è divertente anche in casa, non buchi mobili, sono abbastanza precisi nonostante siano a canaliscia, perché sono perfettamente sferici i pallini, ti diverti. Guarda che c'è sia gas sia a CO2, forse anche elettrica, io ce l'ho a gas, quello bombolette sono, no? c'è la KG Work, però è in plastica ed è scarellante. Poi c'è quella invece a CO2 con le bombolette rigide di CO2, che è tutta metallo, sempre scarellante, è anche più potente. Sì, ma infatti io guarda, è precisa la beretta che usano la pulizia, però le sfere sono in acciaio, sempre a gas. Ma dimmi il diametro dei millimetri della pallottola, 4,5 o 6? Sì, volendo puoi mettere alluminio acciaio, il problema è che quelle cose soft air non hanno abbastanza forza per sparare l'acciaio, cioè sono fatti per pallini che pesano 0,20 grammi, 0,2 grammi, quelli sì escono, ma ci fai pochissimi metri, 2-3 e poi scende. Ma che ho bucato con quelli d'acciaio, ho bucato la gabbina in campagna, quella che usiamo per gli attrezzi. Fai una gabbina io paurosa. Sì, vabbè, però non sto parlando di carabine, io vabbè, ancora io ho 22, era propassata a casa, è pericolosa, quella fa un chilometro 800 metri. No, io sto prendendo questa, è la 92 FS, 6 mm, i pallini sono da 0,80 grammi, Marco. Però io l'ho provata, quella di percorso lo sto dicendo, l'ho provata a 15 metri, 20 metri neanche, dai. 20 metri non c'erano, e ha intaccato, anzi per la verità è entrata, la sfera è entrata nella mascella, a metà, quindi la potenza c'era. Sei sicuro T che non siano sferette in alluminio? Perché dal peso potrebbe essere l'alluminio quello, che in acciaio cominciano a essere pesantucci. Poi dipende anche quanto è forte la... dovrebbe essere in Italia per legge il soft air un joule massimo, però poi sai quando le compri quelle a CO2 sono tutte più forti di un joule e limitarle è un casino, anche se devi giocare a soft air, sai quelle partite a canica lo fanno, si vestono tipo soldati, fanno tornei veri e propri. Comunque già per quei cosi esplosivi sì, che poi è una... lo vende questo sito ambiguo che è militaryshop24.eu, che però non è un sito italiano, credo che sia un sito o bulgaro, viene il dubbio, no, sai cos'è, in Italia sono talmente, no? Che potrebbero interpretarli come munizioni esplosive, come se fossero roba di armi da fuoco, come roba militare, invece sono giabidure. Non so, a questo punto non te lo so dire già, anche perché c'era un forum dove chiedere, però ti devi obbligatoriamente registrare, mettere tutti i tuoi dati, no, non mi va. Ho capito, sei legato a queste cose, va bene, era per saperlo, perché l'ho sentito dire, quindi ho detto va, e io non sapevo che ci esistessero, l'ho parlato di Gianfranco stasera. Ti mando il link. Negozio estero, quindi non ci comprare, perché sono cose delicate, puoi importare roba, poi se si trova in Italia è un altro conto. Ma te la scorri la 22? E appunto, perché stavo dicendo già poco che alcuni dicono che sono proibiti. Che cosa, Gianni, proibita il colore? La 22? Per la 22 ci vuole il portogallo? No, non la calibro 22, stiamo parlando dei funghi praticamente, tu spari il funghetto, come arriva e ha l'impatto dove spari, esplode come se fosse una pistola. No, io ho comprato diversi tipi per un'altra carabina che ho per la gamma, però ne ho trovati diversi, ma di quelli no. Ma tu vai a sparare? Ora non più, tempo fa è andato. Perché adesso c'è un nuovo campo, io sono andato con Natalino, siamo andati lì vicino ai due mari, all'incrocio dei due mari, appena abbiamo fatto andando a Campanella, c'è un campo di tiro. No, non sono mai andato lì. No, ma perché mi piace, ecco perché la volevo prendere. Questo qua è il barattolo in campagna. Svizzera, più di tanto. C'è che bello vicino. La corri? Sì, non te la corri la 22? Ma io ho una Winchester, una carabina, no, non ho la pistola. Ho la carabina, io sto dicendo, io ho una Savage calibro 22 Bolt Action. No, io ne ho una, l'ho preso tempo fa da una guardia notturna, aveva sia la pistola che, infatti ho preso tutte e due, sia la pistola che la carabina. Vabbè, la pistola è piccolina, quella 65, l'altra è una 9x21, e questa carabina invece è una Winchester 22 che però è un caricamento al banano sotto. Da 10 colpi, però sono convinto di una cosa, Natali, poi magari tu mi darai conferma. Non ce la può scaricare, cioè il primo colpo, non ce la può scaricare a caricare bene la seconda cartuccia, io credo che siano le cartucce deboli. Può darsi benissimo che sia sporca, perché la 22 guarda che si sporca molto. Io la mia, giustamente, Bolt Action è più facile la situazione, però la tua è a ripetizione, magari è sporca, amico. E ti può fare quel gioco lì che non ricarica, che non cicla bene, però se sia la cartuccia debole. Che sia sporca, no, perché, vabbè, io la smonto tutta, la pulisco bene, la lubrifico un pochino anche, soprattutto nel carrello. Però stavo guardando dei forum e ho notato che sono delle cartucce superiori, cioè sempre 22 però con più carica, magari è anche quello che solo che non li ho trovati da Antonio e quindi non ne ho preso. Vabbè, non è che la uso spesso, è giusto fare burracci, no, che in campagna, a vedere se riescono a volare dopo. Piccola era una Beretta per caso, io ho la Beretta 70, calibro 7,65, che non uso mai, manco cartucce ho per quella. Sì, anche io quella lì, ma quella è bella perché è piccolina e diciamo è da portare dove vuoi, non c'è problema per quello. 7,65, sì, una Beretta. Ma tu ce la porto là? Io? Per la pistola? E ce l'ho 89 per portarla. Ma per caccia o per che cosa ce l'ha? Uso caccia e uso difesa personale, allora c'era. Ah, quindi tu te la puoi portare anche appresso la pistola? No, non me ne frega niente. Sì, ma dico, per legge lo puoi fare. Allora, teoricamente è sempre meglio non portarla perché ti trovano sempre delle scuse. Dovresti portarla in valigetta, con separata dal caricatore, balevare, ma dov'è lo scopo, questo? Voglio dire, non me ne frega niente. Sì, va bene. A parte che quando c'è l'arma presso, se ti cassi in goccia, ti vedi un colpo a capo, un cazzo più di l'arma, infatti. Può venire sempre 5 minuti, non vedo non la prende mai, ma arma in mano, quando succedono battitecchica, basta uno che non ti dà la precedenza, che ti dice una cosa, che si attacca e come è successo lì, quello non ha detto cosa, se ne parla dalla macchina, ne parla dall'altra. Sì, c'era mancanti però. Io ce l'ho da bambino, si può dire, il porto d'armi. Però bisogna essere anche equilibrati quando hai un'arma, capito? Allora Gianni, io sono del parere invece che se ce l'hai e questa è una cosa, se te la porti, metti il caso anche che io più di una volta l'ho presa, non è che non l'ho presa, non lo nascondo, l'ho portata, ma non è che al primo battibecco togli la pistola e spari, quella che tu sei, al far west, non ho capito. Quando la potresti utilizzare se per dire che ne so 4-5 persone, tra virgolette, migranti, ti rompono i coglioni, allora inizi a fare una corsa. Allora lì ti giochi il sacchessare, ma è giusto per sempre molto in tua vita mia. Sì, ma dopo se la pistola ti finisci in galera, perché così è meglio non usarla mai. Perché l'hanno messa però e la interpreterò sempre a modo loro. Se è così, se è cos'ha, è sparato prima a voi, chi se ne ha girato, insomma, l'interpretano sempre in modo che danno sempre la colpa a chi ha sparato. Sì, ma in Italia lo sai cosa ci vuole? Che tolgano il reato di eccesso di legittima difesa, in modo che la legge non possa essere interpretata. Tu si entri in casa mia, ti mandi in orizzontale e non devo essere inquisito io. Ragione c'ho ti. Ma quello in primis, perché tu non puoi entrare in casa mia o a farmi del male o a rubarmi le poche cose che ho. Giustamente, come hai detto tu, non esci dritto, non esci in verticale, esci in orizzontale, e non so neanche se ti trovano pure, perché ho tanti amici che hanno anche maiali, c'è per quello. Comunque. Alla nuorese, manco le ossa trubi. Giusto per farti capire le cose. Ma voglio dire, non puoi andare a rompere scatola a nessuno, gli altri non devono venire a rompere scatola a te. Nel caso dovessero venire e si è preparato, allora ore spronubis. Guarda, io per allenarmi uso una Glock 17, quella che è da guerra praticamente, quella in calibro 9x21, ma è una guarda, non vuole solo che alla 92. Bella, la Glock è bella, mi piace, poi ha tanti accessori, la Glock mi piace. No, io l'ho venduta la 9x21 perché sinceramente non stavo più facendo niente. Però c'è sempre il pallino, a me le armi piacciono, poi vabbè, fucili qua ne ho una marea, ma sinceramente lo stesso, non è che ne ho due di mio padre, due di mio suocero, buon'anima, due carabine, una 22, una pistola, cioè alla fine sono lì rinchiusi in questa cacchia di fucigliera per fare, preferisco cercare di mandarle a venderle, ma non hanno più neanche più valore, perché sai, chi le ha avute prima di me, giustamente sì, le ha comprate nuove, ma quanto le puoi vendere? 200 euro l'uno, voglio dire, è più che altro la cosa affettiva che hai, perché l'ha usato tuo padre quando era a caccia, che è il valore che tu gli vendendole, capito? Ma hai provato là il fucile a pompa? Sì, ma una cagata, nel senso che, ma aspetta, magari tu l'hai provato diversamente, io l'ho provato a caccia ed è una cagata, nel senso che a quanto stai a caricare, a carrellare tutto quanto, il petto l'hai già perso, perché vai a pompare e non ce l'hai più in mira, lo devi rimirare, capito? È una bella arma, quello senza ombra di dubbio, però fucile a pompa va bene a difesa personale, giusto a fare casino, e possibilmente canna corta. Il mio c'è la canna 50 centimetri, roba di danno fa. Bello è con lo spezzettato, col minestrone. Gianni, sei entrato in un capitolo dove tu con la carabina ti diverti, ma non ti puoi divertire quanto col calibro un pochino più grosso. Sì, vabbè, io non è che c'ha molto... Sì, qualche tiro me lo faccio, ma non è che abbia una passione grossa, sinceramente. A me la Glock non mi piace esteticamente, magari con la pistola è bella, nel senso che tira bene, è perfetta, ma come estetica è troppo squadrata. Poi fece una stupidaggine, troppo bella, Quando io prima ero fissato con la 92S, ero fissato, ma proprio, addirittura avevo anche la scacciacani così, e mi piaceva un sacco, ma la Glock a me piace troppo. A che giorno andiamo al campo e gliela faccio provare a Gianni, sì, e dopo mi dice, e poi è precisa come pistola, non è come la 92, è leggera, qua. È un altro mondo. Bella. Ma quando è il dottor Campo? Siamo insieme una domenica, da poco. No, io ho un amico che va... Non so, magari lo conoscerà. Sì, già lo conosci, Natalia. Ti ricordi a Pino Anacra? Sì, Pino sparava con me alla crucca. Non lo so. Anche lui c'ha la Glock 17. Infatti, siccome ci siamo provati tempo fa, Pino si carica anche le cartucce. Pino è spara di roba. È bravo pure. Anche io ho come le carico, tutti ricaricano, perché noi spariamo molto, non è come andare al tiro a segno nazionale che spari una scatola di cartucce e boh. Casa noi che andando in Mallinazzi spariamo e quindi non ti conviene comprarle, noi ce le carichiamo noi. Guarda, non è fare rientrare al giro perché sennò mi viene una folla. Cioè, io non l'ho venduta proprio perché stavo sperando, mi ha invitato un sacco di volte fino a andarci, non sono mai andato, sono andato lì ai 25 metri al poligono, mi sparavo due, tre pacchi di cartucce da 50 e poi, però ci giochi sacco e sale sempre, dai, non è che è una spesa, anche quella è una spesa, poi per dire la verità lavoro un po' calato, quindi anche quello contribuiva alle spese mensili e ho abbandonato anche un po' per quello. Ma lui adesso il padrone è quello che era la crucca da noi. Praticamente noi siamo dentro un campo di tiro al piattello, capito? Adesso c'è anche il campo di tiro per noi, ma vengono le carabine a tararsele, a farsele, i cacciatori, perché adesso l'arma rilassa sta prendendo piede, e poi siamo noi che spariamo anche con la pistola, col fucile, a pompa, insomma, si divertivo, da. Sì, lo so, ma a me poi, papà, tu pensa che non fa, è giusto per fare l'umore, ho fatto tre pacchi di cartucce a casa proprio perché l'avevo presa in gara, una da parte e l'altra, no, ma perché c'è proprio il rumore, la spugna, il contraccolpo, tutto, rinculo, tutto quanto mi piace, è che, ti ripeto, potrebbe essere una spesa aggiuntiva, giustamente, e bisogna vedere un po' come siamo messi. Di quanto si spende ogni volta che va? Io lo fa una volta all'anno, fai. Non spendo nulla praticamente per usare il campo. Vabbè, siccome non sono informato, il campo quanto lo paga all'anno? Una settantina di euro mi sembra che si paga. È buffa. Sì. 70 euro e poi le cartucce che ti ricarichi, quella roba lì, dai, come viene composta la cosa? Le cartucce te le devi ricaricare tu, o ti ricompareggi o te le ricaricheggi, una di tu viene. Vabbè, ma ricaricandole c'è una sorta di risparmio anche, no? Se le ricarichi tu è logico che risparmi, perché ti compri i bussoli, li raccogli e te li ricarichi, capito? E questi non li devi comprare. C'è la palla, la polvere e la capsula che devi comprare e basta. E te le ricarichi tu, c'è un risparmio enorme. Ci penserò perché vabbè, a me piace, te ripeto, però boh, adesso vediamo, tocca ricomprare una pistola che la Glock costa poco, ti compri una di quelle e non costa poi tanto. E quanto costa? 500? Io la Ruby non fai nulla. Adesso non lo so quanto costa, però più un 600 euro costa, e sono uscite delle Glock, io ho la terza generazione, però siamo già arrivati alla quinta, e dici che di lusso quella pistola, non l'ho ancora provata la quinta generazione, ma hanno detto che è ultima. Ma senza da Marco che partito. Marco, fai anche tu, aiuto. Davvero, abbiamo fatto ping pong, e poi io, quando c'è un discorso che mi prende così. Ma chi? Può fuori? Vabbè, come va? Io. E allora, ciao. Ciao, sì. Perché mi faccio la pistola, Bella, ne costa un bel capo. Costa un bel. Ne ho visto una, dice che l'ha pagata 500 euro, bella, Io avevo, non so se l'hai conosciuta tu, io avevo un Tranfuglio. Era precisa anche come pistola, però ho preso a 600 euro, nuovo, No, ce l'ho avuta anch'io la Tranfuglio. Ce l'ho avuta anch'io la Tranfuglio, l'ho venduta a un barracello di Sorso. Però quella che avevo io gli avevo messo anche le sacche di mira regolabili, era guardi, lusso. Era, aveva lo scatto alleggerito. La competizione era. Sì, sì. E non lo so Luca, Luca, non so se 2000 euro dipende cosa prendi, boh, non ho riferito io, adesso non te lo so dire, quello che avevo comprato io l'avevo presa nuova, l'avevo pagato a 600 euro, ma è un po' ordinaria, dai, una pistola ordinaria. E questa qua 2000 euro, ma bella, bella pistola, bella bella. Non so che, mi sa che è una beretta. Boh, non lo so, perché la beretta sì, però quella che usa la polizia non la trovo in vendita, almeno credo, Quale la trovi? Solo il calibro cambia, invece di essere 9x19 è 9x21, eppure è più potente quella per uso civile. Ah, così è, vabbè, non sono più aggiornato. Sì, devo vedere un paio di cose, se vanno bene un paio di cose non ci metterò tanto a farlo, non lo so, vediamo. Devo avere il macchinario per caricarli, tanto ce l'hai il macchinario. Marco! Allora, in Italia non le vendono, stranamente lo vendono, è un prodotto russo, però lo vendono da siti tipo Slovacchia, Bulgaria, quei posti là. Quindi forse sai in Italia com'è, no? Si fanno prendere dal panico, fanno l'equazione munizioni esplosive, allora le equiparano a quelle da guerra per bucare le cose di carri armati, capito? Allora c'è un video e il collegamento per vedere come funzionano comunque. E costa tirare. Già, io ho lasciato perdere decenni fa perché c'è troppo, anche se ti affitti l'arma lì, ti paghi la linea di tiro, le cartucce, l'arma, i bersagli, tutto ti devi pagare, alla fine comincia a costare un po', se ci vai molto comincia a costare un po'. E poi in casa mia due parenti in passato erano morti per le armi da fuoco, ti parlo di secoli fa, comunque erano mal viste a casa le armi, quindi nulla. E io vabbè, per quello che non esce di fregare, però vabbè il costo c'è il costo sia per fare la domanda, per tirare segno, per avere il codice da portare l'armi sportivo, ci vogliono un sacco di documenti, localizzare, no. Sì, ma io ero andato due o tre volte a chiedere la lista di roba da fare, i certificati, poi mi sono fatto i conti, ho detto ma alla fine non sono così appassionato, no, non a quei livelli. Ma perché poi magari ti stufi, capo, le spese su tutti in banda, vabbè, uno che c'ha la passione forte delle armi, io conosco gente che c'ha proprio arsenali, che ce le ha prese, fatte, anche armi antiche. Io ho un amico che ha trovato le pistole garibaldine del nonno, dentro il comodino, quando è morto, e avevano due colpi, e due canne, mentre lui era un garibaldino. Eia. E poi sono morti per colpa di pistole della prima guerra mondiale, tipo quelle a percussore lanciato, no? Che basta il dentino di aggancio del percussore si è consumato, si è caduto a terra, ha perduto il colpo, morto il parente. E un altro invece ha fatto vedere la pistola all'amico, uno zio, non so da che parte, ha fatto vedere la pistola all'amico, gli ha dato a carico ovviamente, no? Col colpo in canna. Ha prendo il grilletto, la prima cosa che fa uno, cosa fa? Mette il dito sul grilletto, no? E ha ammazzato l'amico, nonché il padrone della pistola. Anche no, non le potevo vedere, pensi che lui, anche in tempi di guerra, dice che in marina quando usciva si portava la fondina con la carta dentro, una volta l'ufficiale l'ha beccato, l'ho arrocciato malamente, e lì erano tempi di guerra. No, ma la pistola non si mette il dito sul grilletto, si mette di là il dito sempre. Sul grilletto lo metti solo quando devi sparare, non metti a dito. Ah, io già lo so, spiegalo a quello. Guarda, se tu dai anche una pistola a salve in mano a chiunque, la prima cosa che fanno, come la impugnano, mettono il dito sul grilletto. E magari premono pure mi. Vabbè. Infatti gli incidenti capitano così. Dai, riprendete. Comunque già guardate il video quando è più tardi, a tempo perso. Non ci fanno un bel ciocco me. Però non servono a niente. Alla fine fai lo stesso danno che fai col col pellet di piombo lì, col piombino. Ma in casa non lo puoi fare, se esplodo lo puoi fare in campagna per divertirmi. Magari spari una bottiglia, qualche cosa del genere, un barattolo pieno d'acqua, lo fai esplodere. Ah, i miei capo lo bucano una bottiglia, ma di quelli plastica dura forte, mi dietro il pallino dentro. È presente quelle bottiglie succhi di frutta, di quelle di verdure, però non di quelle morbide. Beh, spacca. Comunque già, per intenderci, guarda che fanno un rumore tipo cartuccina misera, tipo le super boom, di quelle cartuccine gialle da mettere nei revolver giocattolo. Fanno un rumore così, mica non sono bombe, no? Ma come una fesseria, sono già più dure, infatti. Comunque sì, per divertirsi, ma però in Italia è un po' ambigua in fare la cosa, non mi sentirei di consigliartele, soprattutto non comprarle da fuori. Da paesi non italiani o peggio extraeuropei, che poi se si mettono in testa che la legge non è chiara, ogni tanto cambiano, poi cambiano dal giorno alla notte. Una cosa oggi è legale, come la balestra anni fa, oggi è legale, domani non è più legale, devo denunciare in questura, dopodomani di nuovo illegale, portarcela, trasportarla in campagna tipo... va bene, dai, riprendete un attimo perché sto facendo roba qua. Sai quando ero spazio con le cartuccine con la Cobra S, non parlavo vicino a Trucchetti, c'era un negozio dove vendeva cartuccine, pistole, giocato. Qua che ne abbiamo sparati con le cartucce piccoline di plastica. Gianni, tu che sei anche più grande di me, le hai conosciute quelle pistolette, le vendevano anche in piazza le bancarelle, quelle pistolette in metallo che sparavano quel nastrino con la... Era un nastrino che aveva ogni tot millimetri una compressina esplosiva, faceva un rumore scemo, roba anni 60, eh? Sì, le ho conosciute. Non ho mai avuto, già le ho conosciute. Dino, ma giocate certo con quelle pistole Cobra S. io avevo sia la pistola che il fucile, le cartucce le avevo sia quelle che si dicevano su quelle le, chiamavano le verticali che quelle rotonde. le verticali erano gialle, le rotonde rosse per il fucile, o anche per la pistola se era tamburo, diciamo. Chi si ricorda il nome di quelle tonde circolari? Roma non lo ricordo, non lo so. Signore, io ora ne approfitto che ho un macchio, mi devo lasciare, mi devo soltare la radio, devo fare cosa, quindi ne approfitto a salutare e a ringraziare per questo live. Rilancio il mic a Gianni e poi fate i saluti e poi vado via. Bye Gianni. Ehi, allora, ciao Tino, ci sentiamo, anch'io fra poco vado a cucinare perché se no non mangiamo più tutti. Andrà bene, avanti Natalino, poi fai girare. Ti saluto anche io lo stesso sto andando via, dai, che devo cenare ancora. Ok, salutoni a tutti, ciao Tino, avanti Marco. Ciao Natali, buona cena, buon tutto, ciao Tino, idem con patate, dai, ci sentiamo le prossime. Chi altro c'è da Luca, vai tu. Ecco. Avanti Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera, solo per salutare e sentire a Gianni, bene sta andando quella roba? Ti sei abbassato Fabrizio, prima sei entrato e hai sparato, poi ti sei abbassato di radio. Forse come ho toccato il microfono. Sì, adesso sta andando bene, che apparato è? Ciao Fabrizio. Ciao Tino, ben sentito, il K. Va bene. Dai, c'è di lusso, mi sta andando bene. No, quello ti volevo dire, quello là sta andando bene, sì. Quello mio, sì. Vabbè, l'importante è quello, vabbè, era giusto per questo. No, il K, quello che sto dando via, cioè quello che sto usando, lo volevo riprovare che era un po' facendo ogni tanto. Va bene, dai, che devo uscire, ciao a tutti. Questo qua, quello che mi stai ascoltando, quello, guarda, adesso aumenta anche di radio, così, aumentate così abbassato. Sì, è questo che sto usando. No, già va bene, meglio usi. Sei un genio Fabri. Genio un'altra cosa, quelle sono fesserie. Fabri. Dimmi sì. Ti devo dire una cosa. Dimmi tutto. Non è il mio, eh. Preciso quello mio, però quello di Walter. lo stesso difetto. E che difetto sta facendo quello? 10 mega. E che difetto fai 10 mega? No, praticamente 17 mega è 10 mega, 10.695. Ma questa radio che stai usando ora? No, questa è la mia, è il brutto. C'è stato Guccio si chiama. Sì, no, ma stai parlando del Galaxy? Sì, vabbè. Come devi parlare? Quello che aveva preso per me. Ah, uno è quello che c'ho io qua, che non è cavopiedi, vabbè, fermo dalla vita. E l'altro? E questo è quello che ho preso da Gigino, ti ricordi? Che era fermo, l'ho preso io per usarlo, lo accendo, 10.695. E non esce? No. Oh, quando lo voglio, provo a controllare quello lì, e vediamo. Ma non puoi controllare gli errori a volte, tanto gliene ho messo a posto un paio di Galaxy, magari è pure uno di quelli, non lo so, poi ti tiene fermi 2-3 anni, li accende e non vanno bene. Arrivo. No, questo qua non era fermo, questo era preso da una persona, ti sono andato di cose in verticale. E niente, lasciato lì una settimana, quello preso io, stavo andando fino a oggi, anzi fino a ieri, è ieri che mi ha fatto il difetto. Ieri l'ho acceso, ho convinto, guarda, lo guardo, detto, cacchio, è lo stesso difetto dell'altro, ma vabbè. Vabbè, magari non è la stessa cosa, magari si è solo sganciato, non lo so, bisogna controllarlo, è un po'. Sì, vabbè, senza impegno, quando vuoi. Vabbè, mi sono tirato qualcosa, devo andare. Anche io devo chiudere, dai, ci sentiamo, ciao, corretti da parte mia. Ciao Fabi, mi hai sentito, buona serata, ogni tanto fate sentire, ciao anche a te Tino, buona serata. Ciao a tutti, ciao. Ciao anche Fabrizio, ciao a tutti, dai. Bene. Ciao, Natalino mi sembra che stava chiudendo, Natalino. A quest'ora già digerito. Tu mangiato, io no ancora, devo cucinare, ma non aggiungi una gara. Allora, mi pare si chiamassero Flippy, quelle cartucce con quella coroncina a tonda di plastica, no? Con tutte le capsulette in mezzo. Flippy, roba antica, stiamo parlando metà anni 70, porca miseria. Quanto tempo? No, io all'epoca mia si usava roba Edison giocattoli, se ti ricordi. E la marca che hai detto non me la ricordo, ridimmela. Cobra S, è la pistola Cobra S, era una pistola a tamburo. Ma la ditta produttrice non te la ricordi? Ma stiamo parlando roba anni fine 60 o metà 70? Anni 60, no, forse 70, perché no, 60 non che avevo 10 anni, ma può darsi pure, e forse 63, dai. E praticamente si chiamava Cobra S, la pistola era così, tu andavi e mi dava la Cobra S, ti davo quella pistola lì col tamburo e ci aveva, mi pare, una decina di colpi. Era bellina come pistola, sembrava vera. Allora, qua ho un riscontro e vedo Edison, deve essere dall'Edison giocattoli lo stesso. E tanto quello poi fino agli 70 è sparita quella ditta, Cobra S. Tu sei più grande, quindi almeno 10 anni prima l'hai conosciuta queste cose. Vabbè, certo. Basialetta, si conoscono le cose. Natalino ci sei? No, Natalino ha salvato, si l'ha andato così, Dove sei? O le hanno rotto le mani di nuovo? No, ha detto che andava a mangiare, così ho sentito io. Io ho capito, e anche io dovrò andare perché per loro non è che sia andato via, pensavo che si trattenesse ancora. Vabbè, andate di me. E vabbè, comunque. Io sono vado, devo cucinare la pasta, il sugo ce l'ho già pronto e tira a gamba. Oh, comunque l'ho trovata quella che dicevi tu, Cobra S, non è Edison, è ancora più antica, anni 60 c'è scritto, sì. Le cartucce erano particolari, quelle giocato, allucinante, non l'avevo mai vista queste cartucce. E comunque è molto simile alla Edison, dai. Caspita, Cobra S, poi Cobra E, varie versioni c'erano, addirittura con l'espulsore, caspita. Bene già, dai, buona cena, io non so cosa c'ho, mi viene un caldo in viso, zona guance, che non hai idea, fine serata, e sono tutto rosso in faccia, un altro malanno in arrivo. Andrò pausa. Ehi, quello è scontato, quello da un pezzo, qualche altro accidente da pezzo. Pressione, vabbè, la pressione alta, prova a misurare la pressione. Io approvo, non ho chiattina, dai. Ok, già, dai, mi ha fatto piacere sentirti. Riesco a trattenermi poco in radio anche, non... Quando penso che una volta entravamo tipo dalle 4 alle 8 di sera, 8 e mezza, anche 9, mamma mia, come cavolo facevamo? Vabbè, eravamo anche 10 anni più giovani. Vabbè, a me mi piace tuttora, mi fa compagnia, poi io non mi posso muovere più di tanto, mi fa compagnia. Io, Marco, quando sono a casa, quando vedo il letto per me è un miraggio. Io sono mandrone, più questa stanchezza cronica, quindi anch'io mi muovo ben poco. Bene, ciò è male, dai, ci sentiamo già. Ok. Ah, poi guarda che ti abbiamo chiamato, non riuscivi a agganciare la videoconferenza, ma a te ti squillava stamattina, ti squillava la suoneria. No, negativo, niente, proprio nulla. Infatti ho detto, boh, deve essere non ce l'hanno fatta. Cioè qua squillava a vuoto, sentivo quel suono del squillo, ma non prendeva la, no, non lo so, forse va o aggiornato o configurato da qualche parte il programma. Va bene, non è grave, figurati. Dai, già sentiamo, adesso mi guardo un po' di televisione. Sì? Ciao, buona sera, buon tutto, eccetera, eccetera. Grazie altrettanto, comunque con Antanino andiamo su WhatsApp e non c'è nessun problema. Facciamo le videochiamate su WhatsApp e va bene. Forse, cioè io so che lo supporta, però può darsi che vada aggiornato o il mio o il suo di programma. Controllerò, dai, se si può fare, se no pazienza. Ok, ciao, buona serata. Ciao, altrettanto.